buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera rosa. La vostra radio è formidabile, si riesce a parlare. Quando sono su, pago la tarsù. Quando sono in allegria, paghi la tia. Con una precisazione, dottor colesterolo, dottora Volevi. Praticamente un collega anche del nostro Giuseppe Cruciani, grande maratoneta. Esatto. So chi è. Conosco okay. Anche i suoi tempi, sono scadenti. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ed eccoci di nuovo qui a Firenze, a Pitti Uomo. D'altronde, quando Pitti chiama, noi veniamo di corsa e siamo qua in questo splendido stand di The Bridge. Brava, sì, non è che abbiamo proprio corso tanto, però abbiamo camminato parecchio in questi 2 giorni di permanenza fiorentina e corriamo un po' come la moda, le tendenze della moda, e come ci raccontava ieri Beppe Angiolini, il presidente della Camera Italiana dei Buyer, che ha vestito grandi VIP. La moda va di corsa e segue sempre nuove tendenze. E soprattutto porta il... nel mondo, il Made in Italy, con il suo stile inconfondibile. Siamo i migliori. Dai. Sì, a proposito di stile, però, chi ha qualche dubbio, qualche volta si fa aiutare. C'è il personal shopper, c'è... non guardiamoci reciprocamente, perché non è il caso, non siamo proprio maestre di stile nel look. Però ci sono gli style coach, e magari chissà che un giorno non dovremmo farne uso. Io pensavo che anche tu, come donna di cuore, sempre attenta alla prevenzione e al benessere, in un certo senso sei anche un po' coach di stile, di vita. Che carina, mi piace. E allora ti restituisco anche questo complimento, perché anche tu, cara Deborina, come donna di denari, ci aiuti a far correre i nostri soldi. E allora direi di correre a presentare i nostri ospiti. Certo. Non andiamo molto lontano, perché ce l'abbiamo qua in studio con noi. Abbiamo richiamato all'ordine tutti i fiorentini doc. Sì, uno dei nostri ospiti arriverà di corsa, ma intanto, intanto presento subito Alessandro Pedone, si definisce igienista convinto, ma nella vita è consulente finanziario, quindi anche coach per gestire i nostri soldi, diciamo così. Buongiorno, dottor Pedone. Buongiorno a voi e a tutti i nostri ascoltatori. Quindi qual è il suo compito di questa mattina? Ce lo dica lei prima di farci dire delle cose improprie a me, Nicoletta. Ecco. Sì, parleremo un po' di come la mente incide nella gestione del nostro denaro, e quindi inviteremo anche un po' i nostri ascoltatori a telefonarci e a domandarci come poter meglio affrontare questo rapporto con il denaro, come vivono il rapporto con il denaro, quali problemi hanno quando si devono porre le domande su come meglio utilizzarlo, le spese, quindi il rapporto fra il denaro e la nostra mente, come poter migliorare questo rapporto, ed è una cosa che appunto si può in qualche modo allenare. Lei, nella sua esperienza, dottor Pedone, così avvicinando le persone, studiando il rapporto che hanno con i soldi, può delinearci qualche profilo, così vedo se mi riconosco? Io sono un caso limite. Assolutamente sì, l'aspetto mentale nel denaro è veramente fondamentale. Quando parliamo di soldi, nella nostra mente ci ricolleghiamo a tutta una serie di timori, di preoccupazioni. È un argomento veramente attivante, una serie di nostre problematiche. Di resistenze quasi. Di resistenze. Volta, un po' di pudore. E quindi quali profili ci sono? Sostanzialmente ci sono le persone che hanno paura di perdere qualcosa, e ci sono le persone che invece hanno l'avidità di voler raggiungere qualcosa. Questi sono i due grandi motori, no? Quindi la paura di perdere e l'avidità di voler raggiungere. Sì. Questi due estremi, questi due poli, molto spesso ci creano una distonia cognitiva, cioè ci fanno perdere il punto di vista più equilibrato. Dobbiamo cercare di distaccarci un po' sia dall'avidità e sia dalla paura. Avidità e paura sono i due motori. Avidità e paura, e quindi andiamo oltre alla solita dicotomia cicale e formica. Sì, probabilmente sì, insomma ci siamo un po' anche evoluti da questo punto di vista. D'altronde c'è una disciplina apposita che studia tutti questi comportamenti nella relazione con i soldi, che è la finanza comportamentale. C'è anche un premio Nobel che si è aggiudicato appunto questo riconoscimento per aver studiato tutto questo, Daniel Kahneman. E allora chiediamo ai nostri ascoltatori in che profilo si riconoscono, no? Certo. E come possono raccontarcelo? Eccolo là. 24 00 24 24. Come sempre potete anche scriverci un messaggio al 349-238-6666 o seguirci su Facebook e su Twitter. Infatti, vi aspettiamo. Gli ascoltatori lo stanno facendo. Nel frattempo facciamo avvicinare anche l'altro ospite che tra un pochino continuerà anche ad interagire con noi sui temi che vi abbiamo proposto. Anzi, racconto proprio in diretta quello che sta avvenendo in questo momento nei nostri studi. È arrivato e allora intanto che si accomoda io vi racconto chi è. Il grande, perché mi hanno detto che non posso definirla in maniera diversa, Fulvio Massini, che ci aiuterà a fare un ottimo investimento, ma invece di utilizzare bot, azioni, BTP e altri strumenti di risparmio, ci farà usare il cervello, ma anche le gambe e i piedi. E anche questo aiuta il nostro benessere e anche quello del nostro portafoglio, perché come Nicoletta Carbone ci insegna, lo abbiamo detto tante volte, la corsa costa poco, ma rende molto. Massini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Eccoci buongiorno qua. A tutti. È venuto di corsa, ma non ha neanche un po' di fiatone, no. Fulvio. D'altronde non è carino così. Deve essere così, perché se no io vendo forma, se avessi fiatone allora cosa venderei? È molto caro lei quando fa questa azione di compravendita. No, assolutamente. C'è Alessandro e poi pensa lui. Dobbiamo anche svelare questo, come dire, retroscena ai nostri ascoltatori, che abbiamo fatto a nostra totale insaputa preventiva questa caramba che sorpresa, perché Alessandro Pedone, oltre ad essere un consulente finanziario davvero molto riconosciuto sul panorama nazionale, è anche un atleta allenato da Fulvio Massini. Solo che noi l'abbiamo scoperto proprio dopo avervi fatto... Un atleta è un parolone. Però insomma si impegna molto Massini, perché comunque lui, tra l'altro, qual è stato adesso? È proprio la materia finanziaria che l'ha fatta decidere ad un certo punto di mettersi a correre, anche perché bisognava distaccarsi da questa materia che non è proprio... In realtà la corsa è un momento appunto di una parentesi, no? dai vari problemi, dalle varie cose che impegnano la mente, no? E chi si occupa di numeri, di finanza, ha la mente molto molto sempre attiva. È un momento in cui si libera, è fondamentale. Quindi. Dottor Pedone, sa che lei ha raccontato quello su cui i ricercatori hanno studiato e indagato per anni, e infatti una ricerca condotta dall'Università dell'Illinois dimostra che l'esercizio fisico, e in particolare quello aerobico, come la corsa, stimola i lobi frontali, dove ci sono le funzioni delle esecutive, e qui insomma che si prendono le decisioni, si pianificano le varie attività, in una parola si ragiona, e la risonanza magnetica ha confermato che l'attività fisica aumenta il flusso sanguigno in queste regioni, migliorando la capacità di concentrazione e insomma aiuta un po' a ignorare le informazioni distraenti, quindi ci aiuta a prendere le decisioni giuste. Ma Fulvio, tu anche ci farai prendere le decisioni giuste, perché noi abbiamo presentato il dottor Pedone e abbiamo detto che allenerà i nostri denari, li farà correre, no? E anche tu ci farai correre, ci allenerai. Che cosa ci racconterai oggi e come i nostri ascoltatori possono approfittare di te come coach, questa presenza? Sì, io cercherò di insegnarvi a utilizzare la corsa per ottimizzare anche gli investimenti in denari, no? Perché visto che attraverso la corsa si sviluppa il cervello, si sviluppa questa capacità di ragionare, di pensare e comunque di star bene a livello generale, uno mentre corre riesce anche a ottenere questo, no? Quindi riesce anche a avere chiarezza su certi tipi di situazioni che in questo caso noi le affronteremo sul piano economico, però è questo il bello della corsa. 800 24 00 24. Essere e benessere. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita. Ma quel che leggi sul giornale, e certe volte anche alla sfiga. Ci vuole un fisico. Adesso non è necessario proprio arrivare ad avere un fisico bestiale, però nella vita però aiuta. Tu parli dell'uomo o delle donne? Tra l'altro ieri abbiamo visto tanti bei ragazzi qua circolare a pitti immagine uomo e anche e i nostri ospiti, che... sì altro che noi li portiamo sempre carini. Peccato per le ascoltatrici che non possono vederli, ma adesso li fotografiamo e li mettiamo su Facebook. Nella vita, per essere in forma e a proprio agio, ci vuole allenamento dal punto di vista del cuore e anche dei denari, perché anche l'aspetto finanziario è, come dire, legato al tema dell'allenarsi per poterlo gestire bene. Come sempre, i soldi non fanno la felicità ma aiutano. No, che diceva tua nonna, che è più non carina. Non hanno mai reso triste nessuno, Fulvio. Questa no. Questo è vero. Così come correre, d'altra parte. Perché correre regala buon umore. Correre fa salire il livello dell'umore, questo senza dubbio. Ci sono tutta una serie di situazioni di tipo biologico che vengono scatenate, e quindi questo scatenamento di queste situazioni di tipo biologico, serotonina, beta endorfina eccetera, fanno sì che ci si senta bene si corre con una certa razionalità, con un certo criterio, quindi ottimizzando bene il rapporto fra corsa e gestione della vita di tutti i giorni. Abbiamo chiesto, Deborah, ai nostri ascoltatori di riconoscerci nei profili suggeriti dal dottor Pedone, ma invitiamo anche i nostri ascoltatori che corrono a raccontarci che cosa ha regalato loro la corsa, se è stato un buon investimento, se continuano a correre, o se invece per magari un inciampo, un allenamento non corretto, sono un po' rimasti al palo. 800 24 00 24. Allora, per quanto riguarda le finanze, come si suol dire, nessuno nasce imparato, no? Ci può anche essere una certa predisposizione allo studio di una materia piuttosto che ad un'altra. A Pedone però su questo, voglio dire, partiamo generalmente da zero. Allora, non è detto che risparmi si debbano correre, si può anche conservarli, si possono preservare, però bisogna anche nella loro gestione saper usare il cuore in qualche maniera, ma soprattutto la mente. So che lei ci tiene molto appunto a spiegarci in che maniera si relaziona la nostra testa con il tema denaro. Sì, perché quando parliamo di scelte finanziarie sono temi abbastanza complicati, e ciò che dobbiamo capire è che molto spesso la nostra mente non è preparata per affrontare questo tipo di cose. Per spiegare un po' bene questo concetto, mi piace spesso parlare, come prima avevamo parlato di Kahneman spesso parla di sistema 1 e sistema 2, cioè di come funziona la nostra mente. Possiamo ipotizzare due attori, no? Come se fossero due personaggi del film che abbiamo nella nostra mente. Un personaggio che Kahneman chiama sistema 1, ma per farlo più semplice chiamiamo quello automatico, quindi il personaggio automatico, e invece il personaggio cosciente, è il sistema 2. E il sistema 2, il personaggio cosciente, è convinto di essere il protagonista principale del nostro film. Il problema è che è un protagonista di supporto, o forse non è neanche esattamente un protagonista come noi crediamo. La grande parte delle nostre decisioni, la grande parte delle nostre cose utili dell'uso della mente che ci serve per vivere, lo facciamo sostanzialmente in automatico, con il sistema 1. Il sistema 1, quando trova qualcosa dove crede di non essere in grado di affrontare quel problema, allora chiede aiuto al sistema 2. Entriamo in quello che noi crediamo di essere, cioè l'elemento cosciente. Faccio un esempio semplice. Se io dico 2 più 2, non entra in funzione il sistema 2. Il sistema 1 ci dice già 4, in automatico. Sì. Se io vi dico 12 per 27, il sistema 1 dice no, questo in automatico non ce l'ho, vado a vedere. Cominciamo a ragionare, allora magari faccio 27 per 10, 270, poi aggiungo e inizio a fare un ragionamento. Cosa significa questo? Che molto spesso, quando noi dobbiamo fare delle scelte, molto spesso il sistema 1, quello automatico, ci dà delle prescelte che noi tendenzialmente possiamo dare per buone. Quando affrontiamo i numeri, spesso quelle prescelte non sono esattamente la cosa migliore. Faccio un altro piccolo esempio. Se io dico un bar un po' strano vende il caffè e lo zucchero separatamente. Caffè e zucchero insieme costano 1,10 euro. Lo zucchero costa 1 euro meno del caffè. Quanto costa lo zucchero? Ora, se uno sa che sto facendo un tranellino, magari entra in sistema l'attore protagonista, quello cosciente, ma molti dei nostri ascoltatori avranno pensato che la risposta esatta è 1 euro. Non è la risposta 10. Corretta, perché non sono 10 centesimi, ma è 0,5. Ah, ecco, hai visto perché che anch'io mi sono sbagliata. Un euro non ci ho neanche provato. Il sistema 1 non si è neanche attivato. In questo caso anche il sistema 2 ha fallito. I miei sistemi sono svaniti. In questo momento sono andati a farsi un giretto. Tutto questo per dire che quando parliamo di numeri è assolutamente facile ingannarci. È assolutamente facile. E non è questione di essere più o meno intelligenti. Non è questione, no. È assolutamente facile fare delle scelte sbagliate, e ci sono tutta una serie di errori che dobbiamo cercare di limitare. E che però non devono, insomma, questa consapevolezza non deve giustificarci dal fatto che, insomma, io ho questa resistenza di fronte ai numeri, non devo occuparmi delle questioni economiche quotidiane perché non le capisco. Questo è l'errore ancora più grave. Io stavo parlando quando già una persona è consapevole, ed è giusto però questa precisazione, è consapevole dell'importanza di occuparsi di queste cose. Perché molto spesso c'è un'avversione a prescindere. A prescindere, ah, no, esatto, no, io non preventivo. Ci capisco niente, quindi non voglio nemmeno parlarne. Ecco, questo, no. Ecco, questo è... Non è vero, non dipingerti, vabbè, come non sei, perché non è così. Però... Non è... Possiamo non occuparci di denaro, ma se non ci occupiamo del denaro è il denaro che si occupa di noi. Quindi è meglio... Ma sai cosa mi veniva in mente? Che quando il dottor Pedone ci parlava di sistema 1, sistema 2, di... tra virgolette pilota, lei ha detto persona, no? Comunque mi piace pensare al pilota automatico invece a quello più razionale. Capito anche un po' così con chi corre, no? Con i maratoneti, adesso non è che vogliamo solo parlare di loro, ma di tutte le persone che svolgono sport a livello amatoriale. A volte noi pensiamo di essere, no? Di avere un fisico bestiale, ci fissiamo degli obiettivi molto ambiziosi e non facciamo conto con il nostro fisico, che a volte non è tanto bestiale, no? Va allenato con gradualità, va accarezzato, va coccolato, non stressato. Questi due dimensioni Pedone ci aveva accennato, secondo me possono ritornare nella corsa. Sono due dimensioni, soprattutto una, la prima, quella del sistema 1 e sistema 2, si riferisce anche al discorso tecnica di corsa. Perché, come ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, quando uno comincia a correre, corre. No? Una cosa è correre per attraversare la strada, per cui uno può correre come vuole, quindi è come fare 2x2 fa 4. E l'organismo sa che corre attraversare la strada, si mette un piede dietro l'altro e si corre. Ma se io, per esempio, voglio già correre per 5 minuti, allora comincia già la storia a essere leggermente diversa, e quindi devo pensare a come correre. Se poi devo correre 10 km alla maratona, è ancora diversa. Allora bisogna fare in modo di insegnare all'organismo il giusto modo per correre senza farsi male e per durare per tempo. Allora, per questo... Fulvio, ti racconto che ieri io anticipavo a Deborah che tu hai ideato, no? un tipo di corsa, un metodo, anche riguardo proprio all'appoggio, che l'avevi descritto nella tante volte. Adesso vuoi anche dire a tutto chi ha voluto provarla? Ecco, e Deborah naturalmente mi dice: ma che cosa dice? E noi stavamo da Pitti Uomo dirigendoci verso l'albergo lungo, no, la cosa pedonale. Esatto, io cercavo di fare il Fulvio, però avevo la valigia e cercavo di fare il Fulvio Massini della situazione. Deborah non era tanto però ho provato, mi sono un po' sporta in avanti e lei mi ha spiegato la tecnica di come se avessimo un filo attaccato allo stomaco che praticamente ci viene all'ombelico, tirato all'ombelico, Fulvio, e quindi nonostante gli stivaletti e i piedi doloranti, Massini, ho provato con la valigia a fare questo tentativo di corsa, è durata 12 secondi, però ho fatto una prova veramente stoica, brava, complimenti. Senti, Ci racconti questa cosa? Sì, si basa praticamente sullo spostamento del baricentro. Noi siamo abituati a pensare alla corsa come mettere la gamba avanti, appoggiare il tallone, fare la rullata e quindi fare un'azione molto violenta nei confronti del terreno e quindi fare un'azione di trazione che poi ci porta avanti. Invece in questo sistema, che poi è il sistema con il quale cominciano a muoversi i bambini, basta stare in piedi, pensare di spostare il baricentro in avanti e le gambe vanno via da sole. Di conseguenza cambia l'appoggio, facilita, che non è più di tallone ma è di pianta piena, e il baricentro viene spostato in avanti, diciamo, per inerzia. Il piede appoggia sotto la spalla, non appoggia davanti alla spalla, e così l'impatto con il terreno diminuisce e diminuiscono gli infortuni e poi si va anche un po' più forte. Pedone corre così? Sì, assolutamente sì. Certo. Scrupolosamente. Scrupolosamente. Di fronte al maestro non poteva mica dire neanche no, non lo faccio più. Comunque, adesso, dopo la diretta, noi ci metteremo a fare una corsetta. Sì. Vediamo con se questi Deborah abbiamo qua imparato. Con il tiro dell'ombelico. Mi piace così. 800 24 00 24, ci sono già tantissime telefonate per voi. Ci fa molto piacere. Da chi cominciamo? Da chi si era messa in collegamento per prima? Loretta da Milano. Loretta, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, io sono interessata all'argomento dei soldi, perché io... Non è la sola, Loretta. No, mi rendo quanto perfettamente conto di essere razionale per altri campi della mia vita, ma io ho... ho paura di consultare il conto corrente, per cui sistematicamente rimando, penso, vado a occhio, per cui ci sono dei mesi in cui risparmio tantissimo e dei mesi in cui mi accorgo di ho speso troppo, insomma ho questo rifiuto, ma del tutto irrazionale, mi rendo perfettamente conto, ma è così e non so come fare. Adesso si è scatenato qua il sistema 1 o 2, qual è? Cosa c'è dietro a questa paura della nostra Loretta? È ancora in linea? La nostra Loretta. Loretta, è ancora in linea? Sì, sono qua. Senta Loretta, ma questa paura è per consultare il conto corrente nel timore che non ci siano più soldi sufficienti oppure nel consultare gli investimenti? No, non per gli investimenti. Non ci pensiamo neanche agli investimenti. È quello dell'ordinaria amministrazione. Esatto, quindi è nella paura di aver finito i soldi, quindi è questa la paura. Sì, tutto sommato sì, per cui preferisco non guardare. Ma, okay. Loretta non vede, cuore non duole, mette la testa sotto la sabbia come lo struzzo. Ma una possibile strategia potrebbe essere quella di usare i conti mentali, cioè invece di avere un unico conto che è il conto corrente, destinare già all'inizio anche in zone fisiche o anche in zone mentali diverse dei conti per le varie necessità. Quindi se io ho finito, non ho finito tutti i miei conti, ma è soltanto quel pezzettino che era destinato a quella specifico obiettivo. Quindi associare l'idea di un pezzetto della nostra disponibilità ad una funzione precisa. Quindi ad esempio, tot per la spesa, tot per le bollette, così. Tot per il risparmio, tot per il figlio, tot per la casa, eccetera. Quindi inizialmente si fa una contabilità iniziale di come destinare le disponibilità che abbiamo, e in questo modo quando qualcosa finisce, non finisce per tutto, quindi non c'è un'ansia tale da dire non so più cosa fare, ma al limite è quello specifica cosa che ha fallito. Però io sarò anche un po' malata, piace, però è tanto divertente piace. Fare il diario economico, ma io soffro di qualche malattia strana e che lo guardo tutti i giorni il conto corrente pedone, sono un po' una deriva stravagante? Dipende molto dalle nostre abitudini, dipende molto appunto da come ci siamo rapportati al denaro sin dall'inizio, quindi è un qualcosa che si impara, come dicevamo prima, no? È chiaro che assolutamente l'ideale è quello di cercare di avere le cose sotto controllo, e questo è veramente molto importante. Però nella mia attività vedo che sicuramente il tuo atteggiamento, Deborah, non è comune, non è quello della maggioranza delle persone. Purtroppo la maggioranza delle persone è come l'ascoltatrice che ci ha chiamato prima, che hanno un rapporto col denaro abbastanza schizofrenico, abbastanza molto di pancia e molto poco di mente, diciamo. 800 24 00 24, andiamo a correre adesso con chi ci piace, rimaniamo in Lombardia, andiamo a Luca da Lodi che è un po' affranto, Massini, perché non può correre per un problema che adesso ci racconta. Luca. Buongiorno. Sì, buongiorno, una domanda per il super corridore Massini. Problema di protrusione ai dischi della colonna, quindi mi hanno sconsigliato assolutamente di correre. Io volevo sapere se il movimento che fornisce l'ellittica, quindi l'attrezzo da fitness, può essere un efficace e funzionale sostitutivo della corsa. Sì, sicuramente sì. Sicuramente con l'ellittica riesci a fare la tua attività fisica senza correre rischi. Comunque con questo sistema del quale parlavo prima, della tecnica di corsa, se la cosa non è grave, se non sei in fase acuta, dovresti riuscire a correre comunque. Nel frattempo fai pure ellittica, perché sicuramente l'ellittica, eliminando l'impatto con il terreno, ti permette di lavorare senza far fatica. Magari tienila piuttosto leggera come impegno, non fare impegni, non la mettere dura, non la mettere impegnativa, però falla pure tranquillamente. Cuore e denari. La verità è giusta, la verità funziona, la verità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore. L'avidità invece spesso non aiuta, chi vuole troppo, tutto e subito può sbagliare e corre troppo, sia per il cuore che per i denari. Noi siamo tornati in diretta dal Pitti Uomo a Firenze, oggi parliamo di stile nella corsa e di stile nella gestione dei soldi. E per non fare errori abbiamo voluto farci aiutare da, possiamo definirvi coach, che significa un po' allenatori, guide, aiuti, possiamo? Alessandro Pedone? Sicuramente un grandissimo coach, non c'è dubbio per averlo provato. A me non è una parola che piace moltissimo, perché nel mondo della finanza i coach finanziari sono personaggi spesso un pochino improbabili, che promettono modi per diventare ricchi, che cambiando la mente tutti i soldi verranno a noi spontaneamente. In realtà ovviamente non è così, e anzi invito in questo caso anche in veste di responsabile di un'associazione di consumatori per la tutela del risparmio, invito a diffidare sempre quando qualcuno dà messaggi di soldi facili, perché non è così. Però indubbiamente nel mio lavoro di consulente finanziario indipendente, capire e cercare di aiutare anche i miei clienti ad avere un rapporto mentale con il denaro diverso molto spesso è la chiave di volta. Quindi anche se lei non lo è, può aiutare una persona a diventare coach di se stesso per gestire bene le proprie finanze e avere un proprio stile di gestione delle finanze, perché poi lo stile chiaramente non esiste uno stile per gestire il denaro, ce l'hanno solamente gli investitori professionali che gestiscono magari fondi di investimento, hanno stili più o meno aggressivi o prudenti. Nel caso dell'individuo non è così. Infatti, nel caso dell'individuo la cosa più importante, quello che io cerco sempre di dire ai miei clienti, non è cercare di indovinare come andranno i mercati finanziari prossimamente. Ora siamo a gennaio, è periodo di previsione, no? Come andranno le obbligazioni, renderanno poco, le azioni chissà, non sappiamo, eccetera. Questo chiaramente è una parte importante, ma la parte ancora più importante è capire quali sono le nostre necessità, quindi cosa noi vogliamo dal portafoglio finanziario, e quindi è molto più importante analizzare se stessi che non analizzare i mercati. Certo. La cosa viene dopo, quindi il fatto delle azioni, obbligazioni, eccetera, sono tutte cose interessanti, ma che devono venire dopo, e soprattutto non dobbiamo farci tradire dalle nostre trappole mentali. Quello, ad esempio, il fatto che adesso veniamo da 2 anni di azioni positive, no? Quindi il 2012 si è chiuso con un risultato azionario molto positivo, il 2013 molto positivo, la nostra mente tende a pensare che anche il 2014 sarà così, cioè l'informazione più recente è quella che è più disponibile al nostro sistema 1, quello che abbiamo prima chiamato il personaggio automatico, e tende a darci quella come prima risposta. Quindi tendiamo a vedere in questo momento il rischio delle azioni molto più basso di come lo vedevamo per esempio nel 2011, quando avevamo dappertutto notizie assolutamente negative. Quindi diciamo, questa in questo è una frangente, trappola, un fanello mentale. Se ti si avvicina, Nicoletta, un consulente finanziario che ti dice metti tutti i tuoi soldini in azioni, tu guardi, siamo reduci da 2 anni di corsa, faccio attenzione a quello che dice, perché io e vado a parlare un po' con Deborah. Parla con me. Io volevo invece parlare di trappole mentali, perché ci sono anche nella corsa, mi piace, perché c'è veramente un parallelismo, c'è un bel straordinario parallelismo, esatto. Sì, infatti è un po' lo stesso discorso, no? Anche da noi bisogna partire da un'analisi. Cioè l'analisi della persona e gli obiettivi della persona. Tanta gente arriva e dice io voglio correre la maratona in 3 ore, al primo test uno fa 10 chilometri in un'ora e allora si capisce benissimo che allora anche nel nostro campo bisogna analizzare bene le proprie risorse. Una volta analizzate le proprie risorse bisogna investire, fare dei piani diciamo di gestione delle risorse in modo da ottimizzare i risultati e quindi ottenere degli obiettivi che possano essere a breve scadenza, a media scadenza, a lunga scadenza, ma in relazione a quelle che sono le reali caratteristiche del soggetto. Quelli che vengano, io non garantisco, come il buon Alessandro, a nessuno che farà il record del mondo della maratona, così come lui non garantisce a tutti che diventeranno ricco, ma è lo stesso discorso. Bisogna analizzare, vedere, e in base alle risultanze dire ok, tu potrai arrivare fino a questo momento, fino a questo punto, per arrivare a questo punto dovremmo fare questo percorso e dovrà essere calibrato sulla persona. Ma tutti possono correre in un certo senso, no? Ma il fisico, no? Proprio la postura, ma anche la forma, possono fare la differenza? Sì, non tutti possono correre, parliamoci chiaro, uno che pesa 120 kg non può correre, uno che ha una grave malattia cardiaca non può correre, uno che ha problemi alle articolazioni o a muscoli, a tendini di un certo tipo non può correre. Tutti si può correre, ma per correre bisogna ottenere un minimo di stato di salute. Certo. Quindi ottenuto questo minimo di stato di salute, che si può raggiungere anche semplicemente camminando, andando in bicicletta o nuotando, allora si può cominciare a correre in modo graduale. Una volta... Ma c'è un fisico che è più portato alla corsa? Sai, gambe lunghe, le gambe corte, no, guarda, il centro, questo... le cose. Insomma, questo dipende un po' da quello. Il fisico a pera, il fisico a mela. tutti sono portati per la corsa in relazione a quelli che sono i risultati che si vuole ottenere. È chiaro, se devi vincere le Olimpiadi e sei alto 2,15 m e pesi 50 kg, probabilmente le Olimpiadi non le vincerà mai. Viceversa, se pesi 100 kg e sei alto 1,60 m, certo, bisognerà trovare una morfologia adatta. Allora, voi siete tipi di corsa? Che tempi fate? A che tempi puntate? Di quali, soprattutto, parole, immagini, pensieri vi servireste per descrivere questa passione, perché poi è una passione, Fulvio, anzi a volte diventa eccessiva, che vi spinge a indossare regolarmente calzoncini e scarpette, misurarvi con voi stessi, perché poi è quello che Fulvio ci racconta e che il dottor Pedone può confermare. C'è chi però vuole un po' barare, no? E come Luigi da Lodi dice, ma insomma Luigi, non è che la volevo offendere, no? Però insomma lei non è che vuole fare un po' il furbetto invece di correre, vuole fare la camminata veloce e pensa che sia la stessa cosa. Buongiorno. Ma non è che penso, io la sto prendendo affettuosamente in giro, naturalmente, Luigi. No, io cammino tutti i giorni 35-40 minuti. Bravo. E non c'è problema, acqua, né tempesta, che stia, lo faccio proprio tutte le mattine. Quindi volevo sapere, ma non corro perché non corro, cammino. Guardi Luigi, la capisco perché io ne ho parlato tante volte con Fulvio, anch'io cammino tutti i giorni 35-40 minuti a passo sostenuto, però non riesco a fare il click che verrò a Firenze a farmi fare il click da Fulvio. Fulvio, vale ugualmente? Ma sì che vale ugualmente, non è mio obbligatorio correre. Ma cosa ci manca a me e a Luigi, che insomma siamo allenati, perché insomma 40 minuti al giorno di passo sostenuto è un bel esercizio. Guarda, cosa ci manca per fare non vedo l'ora di vederti in pantaloncini e maglietta con le scarpe da tennis. Non sto male, ti devo dire che non sto neanche male. Non so cosa manca a Luigi, me lo posso immaginare cosa manca a te, Nicoletta. A te ti manca semplicemente la voglia di fare quel pochino di più di fatica che si fa correndo anche lentamente camminando. Io pensa che siamo amici, belli amici. Passa sempre Luigi, noi continuiamo a camminare, poi magari ci incontriamo e alla faccia di Fulvio Massini utilizziamo il suo metodo, quello dell'ombelico tirato, e veniamo di corsa fino a Firenze, così lo stracciamo. Allora 800 24 00 24, Fulvia da Brescia, Simone da Prato, Gianluca da Bologna, facciamo scegliere ad Alessandro Pedone. In che città andiamo? Brescia, Prato, Bologna? Bologna. A Bologna. Gianluca, buongiorno. Sì, buongiorno. Già. Buongiorno a tutti e complimenti anche per la trasmissione. Io avevo una domanda per il mitico Massini e in sostanza è questa. Corro da 4 anni abitualmente, migliorando quelle che sono le performance, seguendo dei tipi di allenamento. Ho iniziato un po' per scherzo e volevo fare la maratona e mi sono accorto che forse era meglio, molto meglio, imparare a fare bene i 10 km, poi la mezza e chissà, forse un giorno la mezza maratona. E, sono soggetto a una lieve ipertensione arteriosa e per cui mi alleno anche facendo le famose ripetute. Ecco, la mia preoccupazione, comunque la mia domanda era questa. Si rischia facendo quel tipo di allenamento e quindi mandando il cuore un po' fuori soglia, oppure aiuta anche quel tipo di allenamento a far rientrare e a livellare quello che è il livello di pressione arteriosa? È risaputo che la corsa insomma aiuti ad abbassare i ritmi di pressione. Sì, la corsa aiuta a abbassare i ritmi di pressione se si fa a ritmo blando. Non superare la soglia, non fare ripetute tirate. Se vuoi fare qualche cosina di un pochino più sostenuto, vai sempre a un ritmo medio, non andare mai a ritmi più veloci del medio, perché potresti rischiare di peggiorare la situazione invece di migliorare. Posso sapere che cos'è una ripetuta? Una ripetuta sono perché già mi aveva visto lampeggiare la domanda in testa. Sono dei tratti di corsa che si fanno a una velocità un po' superiore rispetto a quella è la normale velocità. Diciamo i livelli di corsa sono 3. Quindi si la fa che un minuto lenta, più un certo media, tipo, poi un minuto si accelera, forte, un minuto più piano. Ho capito. Per dirla in un po' termini semplici, perché li possa capire anch'io. In modo artistico, diciamo. Molto bene. 800 24 00 24, raccontateci il vostro stile di corsa e il vostro stile di gestione del denaro. Naturalmente, se il vostro obiettivo è farlo correre, ma è meglio di no, il consiglio ideale è quello di gestirlo bene, di conservarlo, proteggerlo, perché le soddisfazioni sono sicuramente più significative. Perché e mi ci guardi, aiuterà? E ci aiuterà il nostro, lo abbiamo ribattezzato coach, anche se a lui non piace, noi perseveriamo in questa abitudine per tutta la giornata, Alessandro Pedone, che tra l'altro, come ricordava, oltre ad essere un consulente finanziario indipendente, privo di conflitto di interessi, per cui se andate da lui non tenterà di propinarvi un prodotto finanziario di una banca o di una società di gestione, ma più semplicemente vi controllerà se le scelte di risparmio e investimento che avete fatto sono corrette, sono adeguate al vostro profilo di risparmiatore. Ma e è anche, subito dopo, che non l'ho detto, solo concludo, è sì, anche con, esperto, non esperto, adesso non mi viene il termine, nell'associazione dei consumatori ADUC, sì, lui è la persona che si occupa di risparmio. Bravo. E quindi negli anni passati ha fatto tante battaglie, Alessandro, contro i casi di risparmio, sì, tradito, Parmalat, Argentina e tanto altro ancora. Perché la corsa, come conferma Fulvio Massini, ma soprattutto come confermano numerose ricerche, ti dà quello sprint, ti insegna a non avere paura, ad essere, esatto, lucido e non avere paura. Vedi? Sì, per confermo. Adesso, insomma, prima o poi inizierò, sì, a correre anch'io. Adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, ma subito dopo, insieme a Deborah, volevamo affrontare tutte le incertezze, sì, i dubbi che spesso ci assalgono, sia quando dobbiamo maneggiare i nostri soldi, sia quando dobbiamo fare delle scelte, quando iniziamo a correre, ma corro, non corro, ma vado più veloce, ma mi alleno, ma mi rivolgo a qualcuno. 800 24 00 24, quegli inciampini che possiamo anche un po' trovare, no? Inciampi. Cuore e denari. Eccoci qua, oggi siamo ancora una volta in diretta da Firenze, Pitti Uomo, nello stand di Bridge. Abbiamo deciso di affrontare due temi che, anche se sembrano apparentemente molto lontani, invece abbiamo scoperto questa mattina, non tanto perché le persone che abbiamo invitato si conoscono, ma proprio perché sono molto intrecciate nello stile con cui si sceglie di correre e di gestire il proprio denaro. Quindi obiettivi raggiungibili, non c'è bisogno di strafare, non c'è bisogno di moltiplicare i nostri denari come i pani e i pesci, Alessandro Pedone, non c'è bisogno, quando si inizia a correre, Massini, di cercare di raggiungere risultati assolutamente stravaganti. Se non abbiamo mai corso poi in vita nostra, andare alla maratona di New York l'anno prossimo non è proprio come obiettivo. Quindi cerchiamo di essere anche credibili nelle scelte che facciamo. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Peschiamo Simone da Prato. Simone, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Io avrei una domanda per la signora di denari. Eccola qua. Io mi rendo conto di fare, di commettere sempre un errore, che veramente è questo. Io prima di comprare un titolo seguo gli analisti, le previsioni, insomma mi informo un po' sul prodotto, poi lo acquisto con la convinzione che aumenti. Tendenzialmente diciamo che indovino, poi arrivo a un certo punto dove guadagno qualcosa e vendo questo titolo. Al contrario, quando invece non indovino che questo titolo ha un trend negativo, lo mantengo sperando sempre credendo sempre di trovare, di ritornare. Non riesce a sopportare la perdita, non riesce a dire basta, quello che ho perso è più che sufficiente, non voglio perdere oltre, vendo. Bravissima. Lei fa andare... Invece sul trend positivo, e arrivo magari a un certo punto con la convinzione che tendenzialmente questo titolo aumenterà, però nonostante la mia convinzione realizzo la piccola la soglia in cui si accontenta e quindi vende e realizza il suo guadagno. Simone, guardi che io credo che possa sentirsi tranquillamente in felice compagnia, perché Alessandro Pedone è un atteggiamento molto diffuso, ritorniamo a Kahneman, anche in tutti questi meccanismi appunto li ha studiati. È una cosa molto diffusa, ovviamente è una cosa sbagliata, ma se ne rende conto il nostro ascoltatore. Che è già un grosso passo avanti, assumere la consapevolezza dell'errore. È già un passo avanti. Un altro errore tipico in queste cose, che mi sembra che l'ascoltatore non fa per fortuna, è quello quando il titolo scende, comprarne di più, fare la famosa media, mediazione, no? si media per cercare di poter poi rivendere con un rialzo inferiore rispetto al prezzo con cui l'avevamo acquistato. Allora, queste sono tutte trappole mentali e sono guidate in questo caso dall'emozione. Perché il nostro ascoltatore si comporta così? Perché vendere in guadagno è comunque una gratificazione, una qualche forma di gratificazione, cioè sono stato bravo, ci ho azzeccato, o comunque diciamo non ho da rimproverarmi niente. Quindi se poi vendo e crescerà di più, comunque io la mia soddisfazione, la mia gratificazione, il mio io l'ha presa. Mentre se devo fare una scelta in perdita, qui mi sto confermando un errore che ho fatto, e questo costa emotivamente qualcosa, quindi è qualcosa che facciamo molto molto malvolentieri. Quale può essere una soluzione per queste cose? La soluzione è quella di stabilire una strategia a priori, stabilire una strategia e pianificarla sin dall'inizio, possibilmente, come dicevo prima, non mettendo mai anche emotivamente tutta la nostra carica emotiva su un'unica soluzione. Vediamo le cose spezzettandole in modo che la nostra mente potrà dire: ok, qui mi è andata male, però ho anche quest'altra, quest'altra, quest'altra cosa. Quindi abbinare informazioni di tipo diverso. E la strategia è fondamentale perché ci evita l'emotività o ci riduce l'emotività, che è il nostro pericolo più grande di quando gestiamo il denaro. Questa è la diversificazione, uguale non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Il concetto è chiaro. E lo trasleremo anche sulla corsa, perché è perfetto, è Fulvio. Perfetto. Salva Danaio. Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì, pensai di correre fino alla fine della città. Il presidente Carter, per un collasso, è svenuto tra le braccia degli agenti. E una volta lì, pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama. E così feci. Corsi attraverso tutta l'Alabama. E non so proprio perché continuai a andare. Ognuno di noi forse ha un piccolo Forrest Gump dentro, no? Chi lo sa? Possiamo risvegliarlo, Fulvio. Giusto, un piccolo di Forrest Gump, che c'è il Forrest Gump che c'è dentro di noi deve venire fuori, perché questo ci permette di star bene, no? Perché effettivamente andare a ricercare attraverso la corsa questa forma di libertà, perché poi la corsa è una forma di libertà che ci aiuta anche a imparare a gestire le proprie risorse fisiche, psichiche, che dopo si possono riallacciare al discorso finanziario che faceva il caro amico Alessandro, è sicuramente una cosa positiva che bisogna inevitabilmente ricercare e impegnarsi di farla. Si tratta di programmare la nostra vita e cercare di pianificare anche lo spazio da dedicare a noi stessi, che nel nostro caso può essere la corsa, può essere il cammino, come ci diceva il nostro, può essere una qualunque attività, fisica che ci permette di allenare i nostri muscoli e quindi anche la nostra testa. Ma a proposito di pianificare, di organizzare, come ci si ritaglia, e ci rivolgiamo alle persone che magari non fanno attività fisica, non corrono, ma anche non vanno in palestra, perché hanno un ritmo di vita tale che dice: io non c'ho tempo di andare in palestra, non ho tempo di correre, quando lo trovo? Ecco, vogliamo proprio pianificare, si può pensare prima, quindi organizzare questo spazio, questo tempo. Sì, oggi ci sono sempre più persone che si organizzano con tapirolane in casa. In tutti gli alberghi, quasi tutti gli alberghi ci sono tapirolane. Ma è la stessa cosa, Massini? Non è la stessa cosa. Appunto, però perché meglio... a me proprio in palestra non dà nessuna soddisfazione, mi annoio dopo 12 secondi. D'accordo, io sono d'accordo, però meglio che non fa niente. Oppure andare a camminare o a correre in certe strade super trafficate, come nelle grandi città succede, è meglio mettersi lì tranquillamente in palestra o in casa e farsi la mezz'oretta, 40 minuti di attività fisica, che può essere corsa, che può essere cammino, che può essere quello che vogliamo. Oppure esistono le attività che vanno sempre più in voga di home fitness. Uno si può mettere anche semplicemente con dei piccoli attrezzi oppure a carica naturale e farsi la sua mezz'oretta di attività fisica. Ne avete parlato quando io ero per svolazzando sui tetti al giorno della Befana, proprio con il dottor Confalonieri sull'angolo dell'home fitness. Sì, sì, sì. Fulvio, si corre tutti i giorni, poco, tre volte alla settimana, c'è chi corre il sabato e la domenica, insomma la frequenza di questi allenamenti cambia in relazione a quanto vogliamo ottenere dall'allenamento, oppure c'è proprio un suggerimento che preserva anche, no, da eventuali incidenti, aiuta a migliorare i tempi? Quale sarebbe l'allenamento, la frequenza di allenamento ideale? Il suggerimento è la regolarità. E quindi bisognerebbe cercare di ottimizzare nella settimana dei momenti che dovrebbero essere almeno 3 momenti alla settimana. L'ideale per chi fa una vita normale, lavorativa, eccetera, è quella di organizzarsi per fare attività fisica un giorno sì e un giorno no. Sì. Quanto? Il minimo di 30 minuti, l'oretta, l'oretta e un quarto, questo dipende un po' in relazione a quelli che sono gli obiettivi che uno si pone, che deve preparare una gara tipo la mezza maratona, la maratona eccetera, per voler andare un pochino più in alto come livello, potrà fare due allenamenti tranquilli che durano massimo un'ora e nel fine settimana o il sabato o la domenica, perché lavorando su giorni alternati può dedicare spazio per fare i famosi lunghi, lunghissimi, no? Che possono essere di 16, 18, 20, 30 km eccetera. Questo. L'ideale sarebbe però, per chi non ha tanto tempo, di dedicare meno tempo però più spesso possibile. Cioè io dico meglio tre volte a settimana mezz'ora che non una volta un'ora e mezzo. Certo. Sì. Perché questo permette comunque di essere sempre in forma, di sviluppare questa famosa epoca che ti permette poi di dimagrire anche mentre fai durante il riposo, di restare comunque, di tenere sempre il metabolismo sempre attivo, di restare in una parola sola sempre in forma. Se ti fermi e vai una volta a settimana a correre un'ora e mezzo ti prende una grande stancata, esatto. E quando riparti hai perso tutti gli effetti, quindi devi ricominciare da capo. Questo è un po' il concetto di base. Dottor Pedone, lei quanto si allena? Io vado un giorno sì, un giorno no, mi alzo la mattina alle 5 e faccio un giro alle Cascine, che è un parco bellissimo qui a Firenze. E quello che posso dire è che se una cosa piace il tempo si trova. Secondo me bisogna sperimentarla per poi valutarne i benefici, e secondo me poi la voglia viene, no? Una volta che si è... E poi si tende a non poterne più fare a meno. Io ad esempio, che non corro però riesco non può più fare a meno di non correre. Io devo dire che non mi manca quando non cammino. Certo, quando magari piove, prendo i mezzi e non riesco a farmi la mia camminata, mi manca un po', insomma, non è che non succede nulla, però io capisco gli amici che corrono e mi dicono: guarda, avevo proprio bisogno, non sono riuscita, mi manca molto. È una dipendenza piacevole. 800 24 00 24. Io pescherei una domanda, la mettiamo in cascina, come ha detto prima Alessandro Pedone, poi alle cascine, poi rispondiamo dopo aver sentito il giornale radio. È Alessandro da Bergamo che aspetta da un po'. Alessandro, se ce la fa, rapido, e le rispondiamo dopo. Alessandro? Sì, grazie. Se era da distratto, ci dica. Sì, infatti. Niente, io volevo fare una domanda appunto sulla corsa. Sì, è certo. Senta, io volevo chiedere, siccome che la domanda effettiva era: ma quando la testa di un agonista non ascolta il fisico? Nel senso, io ho praticato nuoto, bicicletta, però per questioni di tempo lavorative non riesco più a ritagliarmi un po' di tempo per lo sport. Allora ho visto che comunque la sera ho provato questa esperienza con la corsa, e il problema è che faccio molta fatica in quanto sono... Alessandro, la riprendiamo dopo il GR, stia con noi. A tra poco. Cuore e denari. Nuovamente insieme qua a Cuore Denari, oggi grande puntata dedicata all'allenamento, alla gestione dei nostri pensieri anche, dottor Pedone, che ci spingono a correre e a investire nella corsa, che è un investimento assolutamente salutare, come diciamo sempre, molto redditizio, perché si guadagna e non si spende, ma anche a gestire i nostri soldi. E stiamo notando che ci sono molti parallelismi tra le due cose. 800 24 00 24, vogliamo anche parlare dei dubbi, delle incertezze che dobbiamo affrontare, sia nell'uno che nell'altro campo. Gli inciampi anche. Come dice Deborah, gli inciampi. Ma io vorrei approfondire e dare un'informazione in più ai nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando, alle persone che decidono, magari sollecitate da amici, oppure chissà, magari dalla nostra trasmissione, dire: cosa faccio? Vado e inizio a correre. Ma si può correre mettendosi delle scarpette, come diceva Fulvio, ma non tutti possono correre. correre, ma noi vogliamo chiedere a un grande esperto che cosa è necessario sapere prima di scendere in campo, o meglio in pista. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Fabrizio Angelini. Professore, buongiorno. Buongiorno. Ci sente? Professore? Buongiorno. Eccoci qua. Pensavo di averlo perso. Presidente della Società Italiana Nutrizione Sport e Benessere e nutrizionista della Roma Calcio. Professor Angelini, ma se vogliamo andare a correre e vogliamo essere sicuri di avere tutto a posto, di poterlo fare, dobbiamo farci dare una controllatina dal medico? Dobbiamo fare degli esami? Iniziamo proprio da chi vuole partire con il piede giusto. Ma innanzitutto, come io sostengo e Fulvio lo sa da qualche anno, è che il tantamme mediatico estremamente importante di consigliare a tutti una sana alimentazione, una sana attività fisica porta ad accedere all'attività fisica e anche alla corsa delle persone che possono avere anche dei problemi di salute. Per cui il mio consiglio è, prima di iniziare con una semplice attività amatoriale, di fare una visita specialistica medico-sportiva per controllare la funzione soprattutto cardiaca e polmonare. Se poi la persona invece vuole accedere ad un'attività un pochino più impegnativa, ponendosi, come sostiene sempre Fulvio Massini, degli obiettivi che consentono poi una migliore compliance, adattabilità allo sforzo della corsa, il mio consiglio sarebbe anche di fare un check sia della situazione antropometrica corporea, per cui valutare la massa grassa, la massa muscolare o meglio la massa grassofriva, e valutare anche alcuni indici di funzionalità come la funzionalità tiroidea, surrenalica e anche un pochino l'apparato epatico e renale. Questo perché sappiamo che mettendo in moto il corpo noi scateniamo dei processi infiammatori e delle situazioni di adattamento organico che, se non partono da una base di salute, possono non dare poi gli effetti di beneficio che tutti noi propagandiamo sia nella nostra attività quotidiana ambulatoriale, ma anche poi in questo caso in un'intervista radiofonica. Certo, professore, quindi per chi inizia una valutazione cardiaca e polmonare ci si può rivolgere al medico di famiglia, vero? Sport, con una semplice visita medico-sportiva, perché è la persona più indicata per dare poi una idoneità anche di tipo non agonistico, ma dare il via a iniziare l'attività, soprattutto se il futuro atleta non è più giovanissimo, non si è mai fatto controllare o seppure non segue uno stile di vita salutare. Se invece il podista, se si parla di corsa, vuole fare un programma più adeguato e più approfondito, è chiaro che le valutazioni devono essere un pochino più specifiche, anche perché, come mi è capitato ultimamente con un campione dello sport e non della corsa, poi anche i piani di nutrizione, eventualmente di supplementazione, sono poi un po', come le posso dire, un po' un misto frutta e verdura, dico io, si consiglia tutto, un po' di tutto. A proposito. Senza un razionale, e spesso, se mi posso permettere, da persone non qualificate. Purtroppo in Italia non abbiamo una cultura dell'attività fisica come dovremmo avere. Guardi, io ho un mio collaboratore ora negli Stati Uniti, nell'Ohio, dal professor Ziegenfuss, e mi manda un report giornaliero della sua attività di ricerca, e mi ha mandato delle foto di un ospedale nell'Ohio con annessa palestra, piscina, e dove quando entri in piscina ti chiedono: ma fai attività fisica o la fai per terapia? Cioè l'esercizio fisico è visto come terapia di prevenzione e di cura delle malattie. Noi siamo distanti anni luce. Però adesso, noi lo raggiungeremo un ottimo livello in questo momento, passetto dopo passetto, professore. Noi cerchiamo anche con la nostra trasmissione A Cuore Denari di iniziare, no? di mandare questi messaggi, perché la strada è ancora lunga, ma noi ci stiamo incamminando, professore. Grazie anche ai suoi interventi. Ci sente, sì. professore. Eccoci qua, no, stavamo salutandola e ringraziandola per il suo contributo. Grazie. Però è curioso questo parallelo americano, perché se noi guardiamo la televisione in realtà li vediamo sempre abbuffarsi di hot dog, di hamburger, e là insomma il tasso di obesi io non credo che sia equiparabile a quello italiano, dove tutto sommato si può sempre migliorare tutto, ma abbiamo un'alimentazione mediterranea e mangiamo in maniera diversa rispetto certo. agli Stati Uniti, e poi vogliono insegnarci qualcosa rispetto all'attività fisica. Mi fa un po' sorridere questo, però mi devi... No, Massini, no. Lo vedo, Ti fa sorridere. Loro sono stati i primi a accorgersi di star male e sono stati i primi a accorgersi che per star meglio bisogna fare attività fisica, perché tutto il nostro movimento è nato là. Non so se voi vi ricordate, io avevo 14 anni, il film Love Story, Love Story certo. in cui c'era lui che correva sul ponte di Bloor, ecco, da lì in qualche modo qualcosa. E poi si è scatenato il fenomeno del podismo in Italia, perché parlavo prima con Nicoletta, qui negli anni 70 quando andavamo a correre la gente ci prendeva in giro. Cosa diceva Grulli? Di tutti i colori. Oggi la sera e il giorno a tutte le parti, gente che corre, probabilmente qualche cosina è stato fatto in questa direzione, però non bisogna negare che è nato di là. Perché purtroppo tutto quello che arriva di loro è sempre tutto più bello. Vabbè. Comunque io andrei allora, a Bergamo, che ci siamo persi. Alessandro. Però deve essere un po' sintetico. Faccia il bravo, Alessandro. Va bene. Vada. Buongiorno a tutti. Prima di tutto mi sono dimenticato di salutare prima, mi scusate. Ecco, già abbiamo bruciato tutto il tempo. Sì. Mi scusi, volevo chiedere appunto consigli sulla corsa, perché da ex agonista ho l'approccio con lo sport e lo conosco bene. Adesso per questioni di tempo ho provato a correre la sera dopo il lavoro, però mi rendo conto che è veramente dura. Dura la testa dello sportivo e l'agonismo c'è, però il fisico è quanta pausa, un giorno sì, un giorno no, non riesco a amministrare questa cosa, dolori alle gambe forti. E premetto che sono 1,90 per 110 kg, però... Insomma, un ex atleta. Alessandro, grazie. Chiediamo a Fulvio Massini, ex atleta, forse si è un po' appesantito, sì. Correre la sera dopo, io penso che sia faticoso, dopo una giornata di lavoro, bisogna fare come Alessandro Pedone che si sveglia al mattino. Io farei la sera. Allora, innanzitutto lui era un ex atleta, e si dimentichi di essere stato un atleta, ora è una persona normale, tra virgolette, per cui non esiste più quella persona. Se hai 110 kg e 1,90, aspettiamo a correre, comincia a camminare tranquillamente, vada un giorno sì o un giorno no, cerchi almeno di andare 3 volte a settimana, però cominci a camminare, cominci da mezz'oretta, 35 minuti, 40 minuti, quando è arrivato a camminare un'ora, un'ora e mezzo, tutto di fila, magari passa anche un po' veloce, mettendo le mani come per correre, facendo questa famosa attività che si chiama fit walking, cioè camminare a passo veloce, quando vedrà che riesce a stare sulle gambe un'oretta a passo discreto e non fa più questa gran fatica della quale lei mi parla, allora cominci a inserire dei tratti di corsa, ma che potrà essere un minuto di corsa e potrà essere 2 minuti di corsa, non necessariamente mezz'ora, vedrà che piano piano riuscirà a diminuire tratti di cammino e aumentare minuti di corsa, e riuscirà a correre la sua oretta divertente quando vorrà, che non potrà essere nel suo caso tutti i giorni, ma sarà sempre un giorno sì, un giorno no, però proceda con calma, con tranquillità. Pianin pianino. Il tutto subito è un altro delle trappole mentali, anche Alessandro Pedone, nelle quali si rischia di cadere, o più spesso si cade, quando appunto si comincia magari così ad avere una disponibilità economica, vogliamo cominciare a risparmiare e l'agi subito, dopo 2 giorni vogliamo subito vedere dei risultati, no? Le capita anche questa... Diciamo situazione. Questo un pochino meno, capita molto spesso la frenesia di voler investire, no? È come se avendo i soldi liquidi stiamo perdendo chissà quale occasione, quindi siccome li ho lì qualcosa devo fare, allora qualcosa devo fare, la prima occasione o comunque diciamo non prendo il tempo per invece fare un piano di investimento che, come dicevamo prima, è fondamentale per tenere un po' a bada le nostre emozioni. Gioca qualche volta un po' anche la pressione che esercita su di noi magari un consulente che vuole portare a casa chiaramente la sua commissione su quella vendita di quel prodotto, no? Siccome le compagnie finanziarie sanno benissimo come funziona la mente degli investitori e quindi sviluppano anche offerte e piani di investimento che fanno gioco contro, che sfruttano queste trappole mentali contro gli investitori. Il tipico esempio è quello di dire l'offerta a scadenza, esatto. No? C'è questo prodotto ma lo devi sottoscrivere entro il. Io dico sempre, se c'è questa cosa è un'ottima ragione per non perdere tempo ad analizzarlo. Quindi si dice in no genere, a prescindere. La scadenza è come dire, soprattutto per chi propone questo investimento, il consulente che più vende, chiaramente entro quel tot di tempo più ha una remunerazione interessante, non è sicuramente un'operazione che va a vantaggio del sottoscrittore. Andiamo a sentire Luigi da Cremona, che lo vedo scritto lì da un po' e lui sta correndo lungo un fiume. Luigi? È un po' che ho smesso di correre, a dire la verità. Ah, ecco, no, perché se no sarebbe veramente... Eccoci qua, ci scusi, ma sa com'è, siete in tanti, noi vorremmo accontentarvi tutti quanti e non ce la facciamo. Ci dica. Allora, niente, io sono, voglio dire, autodidatta in tutte e due le cose, sia per la gestione del mio risparmio che per l'attività sportiva. Allora, iniziamo dalla gestione del mio risparmio. Ho iniziato negli anni 80, investendo i miei risparmi con i classici BOT, quando rendevano ancora molto. Poi ho investito nei primi fondi comuni. Poi ho iniziato con le privatizzazioni, le azioni, sono intervenito sulle singole. Poi ho scoperto gli ETF e adesso addirittura con gli ETF strutturati. Ho preso le mie belle soddisfazioni, ma mi sono preso anche delle belle legnate. Si vuol dire. Sono incappato. Se andasse sempre tutto bene, allora non saremmo qua. Sono uno di quelli incappati negli aerei che hanno battuto le torri, nella bolla dell'high-tech. Sono incappato nella crisi del 2007 e nonostante ciò continuo. Continua a correre, come si dice, no? Ma, d'altronde, guardi, io non penso che ci sia qualche risparmiatore che nel corso degli anni riesce ad ottenere solo ed esclusivamente soddisfazione. Deve avere, come dire, un passo molto, molto modesto anche nella gestione degli investimenti, Pedone. Cioè, sceglie poco più che un conto di deposito, chi certo. Proprio non vuole rischiare niente, no? Certo. E beh, durante la crisi bancaria anche chi aveva conti di deposito era un po' di preoccupazione le aveva anche in quel caso. Ecco, però volevi magari fare un'analisi, far fare ad entrambi un'analisi sul tema del fai da te. Lui l'ha fatto nello sport così come nella gestione non del risparmio. Sì, non ci ha detto qualcosa della corsa, abbiamo sentito che corre parecchio, anche se intanto che ci ha ascoltato si è fermato per fare una camminata che ogni tanto ci vuole, no? Lo vogliamo sentire come ha fatto il fai da te anche nello sport, Luigi? Luigi, ci manca la seconda parte, ci manca la parte del cuore, ci ha raccontato solo la parte dei denari, quindi. Bene, stavo dicendo che ho iniziato a correre come tutti i bambini nel giardino di fronte casa, sbucciandomi le ginocchia, ho giocato a calcio a livello amatoriale fino ai 30 anni, ho continuato comunque a correre, a nuotare, in tutti i campi sempre autodidatta, nessuno mi ha mai insegnato niente, no? Anche l'allenatore di calcio è l'allenatore di una squadra di provincia, per cui senza grossi competenze. Ho, diciamo così, corso senza problemi fino ai 49 anni. Poi ho iniziato ad avere dei grossi problemi, infiammazioni nervi sciatici, problemi muscolari, che mi hanno portato in un primo momento ad affrontare la situazione con antinfiammatori, antidolorifici, e quello mi hanno rovinato. Poi è un po' una storia che insegna che a volte una guida è utile, e quindi noi passiamo alla parola alle nostre due guide. Certamente, i nostri due coach. Allora, vabbè, il tema del fai da te, Pedone, no? C'è qualcuno fai da te, io dico questo, la saggezza popolare ci dice meglio soli che male accompagnati, nel senso che se l'alternativa al fai da te è qualcuno che ha interesse a venderti qualcosa, qualcuno che si chiama consulente e sostanzialmente è un venditore di compagnie finanziarie, allora per me è molto meglio che far da sé, essendo però consapevoli che si tratta di un campo molto complicato, quindi limitandosi alle cose più semplici possibile. Quindi prima l'ascoltatore ci parlava di ETF strutturati, gli ETF sono ottimi strumenti, gli ETF strutturati bisogna conoscerli molto bene, quindi non li vedrei molto adatti ad un investitore anche che fa da sé. Sono prodotti di investimento. Per il fai da te io due consigli molto semplici. Il primo consiglio è usare solo strumenti finanziari che sono quotati nei mercati regolamentati, cioè se ci propongono qualcosa che ce la può collocare soltanto firmando da quella persona lì, e quindi io non posso comprarle presso qualunque banca, questa è già una buona ragione per tentare di, come dire, per escludere queste cose, perché sicuramente. E l'altra cosa è di fare solo cose che si conoscono, cioè le cose più semplici possibili. Mi fa un esempio. Titoli di Stato, quindi BOT, CCT, ETF possono essere cose che si cominciano a conoscere, già serve una certa conoscenza. conoscenza, buoni frutti, buoni frutti. Alla posta, un consiglio che do sempre: alla posta, tutto quello che è emesso dalla cassa depositi e prestiti, cioè il vecchio e vero risparmio postale, sono cose molto poco remuneranti, magari, cioè si corrono molti pochi rischi, ma si ha delle cose semplici, comprensibili e quindi accessibili a chiunque. Tutto il resto, alle poste, prodotti assicurativi, fondi comuni, tutte, sono esattamente come le cose delle banche, con l'aggravante che sono rivolte a un target di persone spesso poco preparate, perché sono pensionati, persone, e offerte anche da persone particolarmente poco adeguate a queste cose, perché fino a poco tempo fa portavano le lettere e adesso devono vendere le polizze. Allora, quindi, le teorie di Alessandro Pedone sulle poste le conosco molto bene. E io passerei a Roberto, che ci chiama da Verona, che forse ha bisogno di un aiuto dal dottor Pedone. Roberto, buongiorno, benvenuto, si racconti a noi. Buongiorno. Mi sente? Sì, andiamo, Roberto. Ah, molto semplicemente il mio era più che una domanda, un intervento, nell'ordine che avete parlato di moltissimi consigli e il professor o il dottor Pedone sicuramente si riallaccia a tutto quello che sono anche diciamo la logica popolare, che è una bellissima ricordo, quello di dire chi va piano va sano e va lontano, ed è perfettamente ragione. Però quello che vorrei chiedere, perché non consigliare anche, o forse non è necessità, di poter avere anche un rapporto proprio mentale, ovvero trovare un proprio equilibrio psichico e nell'occorrenza anche rivolgersi alle dovute strutture per poter avere, perché spesso e volentieri, secondo il mio punto di vista o quello che ho visto, uno eccede in una, sia nel mondo sportivo o anche nel mondo finanziario, in attività o in funzioni che sono al di sopra delle sue possibilità, mosso da una sua fantasia, chiamiamola, di poter arrivare chissà dove o poter realizzare. Era quel famoso pilota 1, pilota 2, che io continuo a chiamare pilota, ma insomma era... Dottor Pedone. Ha ragione, nel senso che se ci sono dei problemi mentali forti è ovvio che bisogna rivolgersi da professionisti, da esperti. Nella media non è così, nella media basta fare un po' di attenzione, conoscere queste cose, quindi con un po' di educazione si riesce a fare da sole, ma se tutto nasce dalla mente, quindi se c'è un problema mentale non si corre bene e non si usano bene i nostri soldi. D'altronde se mi si rompe il televisore non me lo cerco di aggiustare certo da sola, cioè c'è un momento in cui bisogna riconoscere che ci dobbiamo affidare a un coach. Io tornerei sul fai da te insieme a Fulvia Mazzini, il fai da te della corsa, perché molti iniziano da soli, magari seguono l'amico e si inizia a correre per magari mandare giù qualche chiletto accumulato durante le feste, o c'è chi vuole già per organizzarsi per la prova costume. Il fai da te, regole come ci ha dato il dottor Pedone e per evitare gli inciampi. Allora, il fai da te, per le regole le abbiamo dette prima, no? Partire con molta gradualità, non necessariamente riallacciandosi all'ascoltatore di prima. Nel caso suo, visto che ha fatto esperienza anche di nuoto o di bicicletta, se corre probabilmente ha corso troppo, quindi alterni un po' la corsa al nuoto, alla bicicletta, questo famoso concetto di cross come training, diceva il dottor Pedone. Esatto, ma è tutto uguale, cross training. Per quanto riguarda poi il discorso dei vari consulenti, in Italia esiste una bellissima facoltà che si chiama Scienze Motorie, dove ogni anno escono fuori dei ragazzi molto preparati. Ricordiamolo, quindi, sono bravissimi vogliamo ringraziare e ricordare, perché sono veramente bravi. Devono sentire rappresentati anche qua. Cerchiamo di affidarsi a questi ragazzi, evitiamo, lo so, chi fa il meccanico e con tutta la buona volontà e l'impegno poi si mette a fare programmi di allenamento, a allenare le persone. Insomma, oggi esistono delle figure qualificate, quindi così come nel campo della finanza cerchiamo di affidarsi, allora siamo sicuramente più sicuri di essere in mani buone. Questo è un po'. Che vuoi sapere come si sceglie anche il coach finanziario? Perché io un po' le teorie di Alessandro Pedone le conosco, perché lui dice no, lo diciamo perché oggi c'è questa grande non è una battaglia, non è una polemica, ci sono questi due mondi che nella finanza si confrontano, che è quello, l'astro nascente, che è il mondo della consulenza finanziaria indipendente. Ci sono poi promotori finanziari che lavorano per banche e società di gestione, appunto, che chiaramente vendono prodotti di una casa o di più case di investimento. Quindi un grande tema è questo: se viene un promotore finanziario che rappresenta una società, è chiaro che cercherà di proporre a chi risparmia un certo limite, cioè una rosa di prodotti molto limitata. Certo. E invece come facciamo a scegliere il coach che fa bene per noi? In tutte le cose la persona fa la differenza, quindi è importante quello. Non voglio dire che l'uno sia meglio, sicuramente non avere conflitti di interessi è una parte importante. Io dico fare molte domande, quindi la regola principale è fare molte domande. Se vediamo ritrosia nel rispondere, questo è un campanello d'allarme molto importante. Allora salutiamoci e noi andiamo di corsa con il laccio dell'ombelico. Grazie a Fulvio Massini. Grazie ad Alessandro Pedone per averci raggiunto qui nei nostri studi di Firenze. A Paolo Corleoni. Certo, Davide Ciocia che sta qui vicino a me. Laura Vanossi, la Elena Ligios che ci gestisce nel marketing, che è in giro per stand. Ringraziamo anche De Bridge che certamente ci ha ospitato. Marco Lombardo a Milano, no? Sì, abbiamo terminato. Basta così, siamo in tanti. Grazie anche a tutti. A noi, grazie a voi. A lunedì, buon weekend a tutti.